sento io gli uncino la verità. Mi stavo guardando su internet questo Cobra 29 Lynx, è un apparato americano, guarda. Se lo vedi è uno spettacolo solamente vederlo. Tu vai a guardare quello che su io. Este 980, Magnum Este 980. No, quello non l'ho visto. Quello che sto guardando io c'è un display LCD che è uno spettacolo. L'unica diciamo difetto tra virgolette che va solamente in AM e basta, 40 canali. Ma c'è la sveglia, c'è il frequenzimetro, l'accensione e lo spegnimento automatico, e un po' di stupidaggini, e costa 105 euro solamente. A un base? Sì, per casa. Tu digita Cobra 29 LX e tu lo vedi questo apparato, e guarda, è di una meraviglia incredibile, non sembra neanche un baracchino. Dai, c'è questa forma, che non è il microfono, e vedere quanto è bello. Veramente molto, molto rifinito, come apparato costa poco. Allora, in dollari viene 189,98 dollari, tradotto in euro, guardato bene bene, viene 108 euro, una cosa del genere, non di più, 120, manco, gli manco 110 euro ci arriva, nuovo, questo telefonato non ha risposta per mercoledì se può arrivare questo apparato. Se tu lo vedi, guarda, è una meraviglia. Ma tu l'hai già telefonato? Io ho telefonato a questa azienda italiana, metto di chiamare mercoledì, che mi facevano sapere, se no sei costretto a ordinarlo dall'America, è un apparato americano, ma tu digitalo, guarda, è uno spettacolo. Ma devi pagare anche lo sdoganamento, lo sta? Non lo so, ho visto che trasferi di spedizione tra America e Italia ci dovrebbe essere sui 60 euro di spese di spedizione, una cosa del genere. Poi bisogna vedere con l'Italia com'è, ordinandolo da loro. E c'è la possibilità di cambiare il colore dei display in quattro colori a LCD. Tu devi solamente vedere tutte le cassatine che ha, guarda, l'unica differenza è che funziona in AM, senza bande laterali, neanche in FM. Tu digitalo con l'apparato e tu mi dici se ti piace oppure no. Perché tu cosa usi? Bande laterali, FM, cosa? È difficile che si usi da qua. No, io ogni tanto in bande laterali ci vado, Ma anche io ogni tanto, però, lo usi poco. A me non piace molto, di cosa essere sincero. Comunque quello, guarda, se lo guardi è bello, costa pochissimo, esteticamente, guarda, è una meraviglia, perché alla fine siamo assidati a vedere, diciamo, i Midland, tra i Midland e l'Intec, alla fine meno male hanno tutte la stessa forma, gli stessi pomelli, anche se sono disposti diversamente, però alla fine il contesto è quello. Se tu guardi quell'apparato, guarda, ti fa anche da sveglia questa storia, si accende, si spegne, canali di emergenza, canali che li puoi memorizzare automaticamente, però esteticamente insieme, tutto, oltre a queste funzioni che ne altre, esteticamente, guarda, ti giuro che non sembra neanche un baracchino, guarda. Vai, spegnatelo, vai a guardare il mio, Magnum Este 980, se ti piace. Se hanno senso lo guardo, aspetta, prendo il computer e lo guardo. È la base, estimi in base, dai. È un po' grandetto per mettere in macchina. Lo guardo, Magnum S980. Va. Belli apparecchi sono. Sono apparecchi non molto grandi, belli compatti, vanno alla grande. Il problema, Antonio, qual è? Quando compro questi apparecchi americani, sono sofisticati, sono quello di lui, però se ti spiego un po', dove li fai aggiustare? Punto di domanda. E non chiedi, no, e neanche qua, se qualcosa si rompe, chi ti li aggiusta qui? No, qua si trova. Se tu praticamente un apparecchio tipo il Midland, qualsiasi persona te lo aggiusta il Midland, perché i pezzi si trovano tutti, anche la mascherina, tutto. Anche per la 44, io ho fatto una ricerca, non ne ho trovato. per il 44 fui commesso da un bel tempo e il 48, io sto parlando 48, 46, 48 BCX, 48 quello di importazione, credo che è lo stesso quello di importazione. Ma io ti dico, se tu guardi quello, poi bisogna vedere i tuoi gusti come sono, tu guarda quell'apparato, poi mi dai una risposta, mi dai. Per tutte le cose che ha, per dire, non costa neanche poi così tanto, Secondo cosa ci ordiniamo in schiera? Guarda, è solamente da vedere, tu lo guardi, hai fatto la ricerca, ce ne sono tantissimi belli, e a quanto pare questa è anche edizione illimitata, ho fatto questo negozio che erano solamente 10 pezzi, ordinato in America. Angelo, cosa c'hai tu? Sì, io te lo sto vedendo, il magno messo a testa, non è male anche questo, mi piace anche a me questo, la verità, questo rimane, diciamo, un apparato abbastanza più classico alla fine, è bello come te, l'ho visto anche questo, l'ho visto a 385 euro, questo apparato che hai tu. Ma tu hai visto la Spinoff, che è un altro modello, anche se si assomiglia. È lo stesso della Magnum, è l'S9, questo è il 980. Infatti ho digitato Magnum 980. Adesso mi ha fatto entrare in YouTube e mi sta facendo vedere il video di questo apparato qua. E già è bello anche questo già. Vedi qua, questo qua meno male, è bello. Fisicamente poi alla fine, diciamo, è un classico tra gli apparati. Quello è tutta un'altra storia, guarda, ci non serve neanche un baracchino. Ma se tu lo vedi, l'ho tanto acceso, è tutto blu, quando moduli si fa rossa la luce, è tutto particolare, guarda lì, guarda anche, diciamo, la sua descrizione. Tu quanto l'hai pagato? Questo sempre nuovo, l'hai preso di prima mano, no? L'ho pagato 470 euro questo qua. Dio mio. No, voi non compro, è difficile che compri roba secondo me, a meno che roba che non si trovi, tipo il Galaxy, che non lo trovi nuovo, se non l'avrei comprato nuovo, se l'avessi trovato nuovo il Galaxy, ma l'avrei preso nuovo di Zec. Come il modello che ho io, però fatto sta che ho trovato altri nuovi Galaxy, apparati quasi simili a quello che ho io, molto più di nuova generazione, li ho visti, meno male alla stessa estetica, come stanno vendendo lo stesso, li ho trovati sui 600 euro nuovi. Ma di che cosa stai parlando? Come si chiamano? Galaxy? Galaxy, adesso però c'era Galaxy, un'altra sigla, sempre a 5 stelle, però non è il modello che ho io, è proprio nuovi modelli, di nuova generazione, capito? Però non mi ricordo, devo ricordarmi in quale sito sono entrato per dare la descrizione giusta. Galaxy Turbo. No, non è la roba di Turbo, Però è un altro modello nuovo che stava facendo. Ma io stazione di base, dico la verità, non ne ho più viste in vendita. Base, ma complete come il Galaxy, non ne ho più visto. Sì, te lo sto dicendo, li ho visti io ieri. Ero tutto il giorno assillato, c'è stato tanti di quei siti che neanche mi ricordo. No, comunque ce l'ho presente io questo, cioè ce l'ho qua davanti il disegno di questo modello qua. Tu se c'è il computer domani assillati e dici direttamente, compra 29 LX e 10 lui, uno spettacolo. Capo, vado a vederlo, se mi piace me lo miglio. Buono e buono, poi magari li puoi mettere anche gli altri canali. Ci abbiamo qua a Terragua, ci abbiamo un genio degli apparati, Roberto, ma facciamo mettere i canali stop, i canali stop, ti mette la scheda 120 canali a push. È bravo come tecnico questo. Cazzo, ti vanno tutti gli autisti della Sardegna, vanno da lì a farsi fare gli apparati. Oh, poi metto, di dov'è questo? A Litterralba forse. No, non è Litterralba, sto sbagliando io. Lo sai che sto sbagliando, è del Cagliaritano, ma non mi ricordo di che paese. Ma sta di Radici Vulcano e ci presta lui. Perfetto, vuol dire almeno un punto di riferimento ce l'hai. Anche dall'FM sicuramente, dopo che arrivi. Non è ADFM, è quello lì, c'è solo AM, ci stai dicendo. No, solo AM. Certo, così di solito quella parte qua, quando vengono rimettono la scheda dell'FM, quando vengono qua in Italia, nei negozi, a prendere. Di solito quelle apparecchi americane sono l'AM e le bande laterali, come SMI e l'STB, solitamente, poi ce ne sarà qualcuno che non ce li ha, ma io ne ho avuto di quelli americani, ne ho avuto Walter, se ne ordinava 70 alla volta, Walter, infatti ho detto se non laggiù i suoi, erano tutti l'AM più le bande laterali, non li usano di FM. Perché poi alla fine anch'io lo usiamo, se sempre in AM alla fine, alla fine è quello, Però ti dico, dammi, se l'avresti avuto adesso per dire il computer a portata di mano, fanculo sbagliato, mi avresti dato una risposta a vedere. Vediamo se si butti. E poi no, mi dai una risposta, lo guardi e vedi un po'. Esci subito il sito Cobra e poi cerchi direttamente e te ne escono apparati paurosi, ma quello secondo me per il mio gusto è una cosa migliore. Ho visto anche le schede tecniche, come anche qualche modifica, puoi vedere il microfono, come è lavorato, è una meraviglia, solo il microfono è una meraviglia di quell'apparato. Lo sto già immaginando com'è il microfono. Con la retina divisa è serpente al centro, quello tipico del Cobra. Esatto, proprio quello. Poi devi vedere a lui che, guarda, porca miseria, adesso il mercoledì chiama e vedo un po' se riescono, se ci hanno, se lo fanno arrivare qua in Italia direttamente e poi lo spingono a casa, se no tocca guardarlo là, direttamente sul sito internet e acquistarlo lì. Sa parlare americano o l'inglese? No, vabbè, poi già c'entra il traduttore, non è un problema, per quello già l'arrangio per quello lì. Però per 104 euro ne vale la pena, poi vediamo un po' le spese di spedizione, com'è la situazione, però è carino. Ma magari c'è anche qualche ditta che li odia. Aspetta, spedibile il computer che lo sto usando, se non controllo, un attimino, ripetibile. E io? Cara, dai, io vi saluto, dai. Vi auguro una buona notte a tutti. Ciao, ciao. Ciao, buonanotte. Domani lavora allora? Domani si lavora, si lavora. Via. Agando a sabato. Perché anche sabato lavori? No, almeno domani, poi sabato ti riposi. E Cobra 29 X, vado a vedere. Eia. Nessuno. Io lavoro anche il sabato mattina, lavoro. Ciao Bombo. Ciao già. Ah, sabato mattina anche, basta, dai. E cos'è? Che lavoro fai? Io porto Bombo. Dai, già non è così pesante il lavoro, sbaglio. Sì, ho dovuto cantare adesso, poi mi torno a riposta. Ma io l'ho voluto fare anche io, ne servono gente lì a lavorare. Cosa? Certo, se dove lavori tu ne vogliono gente a lavorare, ho detto, a portare bombole. Ce n'è per noi, immaginiamoci se ce n'è per gli altri. Oggi non ho lavorato, non c'era lavoro. E cos'è la gente? Non sta più cucinando? Siamo d'estate, l'inverno già lavori tutti i giorni, tutto il giorno lavorando, ma d'inverno no, cioè, d'estate invece è così. Allora ci sono giorni che lavori bene, ci sono giorni che non lavori, ci sono giorni che lavori così. È sempre una ruota, dai, alla fine. Andremo bene. Quel campo lì è un po' così. sentita la giornata, va. E quello poi anche con la scusa, anche di questi impianti che hanno fatto di aria propanata, cazzate varie, la gente si attacca lì e anche io penso una bella, vengono penalizzati giustamente voi che li trasportate in casa le bombole, quello già è vero e non è facile. Non è un lavoro molto facile, sembrerebbe facile ma non è un lavoro facile, perché quando ci sono, non è come lì a Ussi che sono tutte case basse, quando ci sono i quarti pianapiedi, questi pianapiedi gliela devi portare. Sì, quello c'è, no ma guarda, vedi, per quello non avrebbe neanche nessun problema, perché ho fatto per 13-14 anni mobilieri, altro che bombole, anzi mi sarebbe piaciuto portare bombole che sono molto più leggere, altro che, e dunque proprio quella la fatica, io manco la sentire la verità, l'hai fatto molto volentieri, però alla fine, e cosa vuoi fare, pazienza, cioè si accontenta di quello c'è, di quello che c'è alla fine. Dove sono entrato? Dimmi, visto l'hai? Non ne vuole affatto, opera, sono diventate signore, bombole a piane alte. E io faccio tutto, non me ne frega niente. E vorrei che ci sia una limitazione, anche io pure io sono un cristiano, che ci sia una limitazione, che cioè, pure io sono un cristiano, perché non me ne puoi portare due alla volta. Già te le porto lo stesso, però se non me le puoi portare è meglio. E quello sì. Ebbene, visto l'hai? Sì, guarda, l'ho visto, ma non è la base. Aspettavo io. Però io non era fatto la base, era fatto come S980, come grandezza. Io vi saluto, dai, buono per tutti, ciao ciao. Ciao. Ciao a tutti, buonanotte e buon lavoro. Ma in che senso la base? Ma se significa un apparecchio grande come quello che c'hai tu e c'ho io, Galaxy. Ah, no, assolutamente. Diciamo, vabbè, per macchina, prendiamolo ad esempio come macchina, come la 68 e via. Ma l'hai visto, questo qui l'hanno fatto per il 50° anniversario del Cobra. Non ti piace quel modello? Adesso lì di regola il display te lo fanno vedere rosso, quanto col pulsante li cambi di quattro colori, rosso, verde, giallo e blu, e poi regolare la tonalità della illuminazione, ogni colore più forte, più leggera. Non ti piace come apparato? Sì, è bellino. Non mi dico l'apparato, ma non mi ha deluso il fatto che io pensavo fosse di quelli grandi, di quelli da base proprio, perché io per casa a me mi sono sempre piaciuti quelli da base, quelli grandi, completi, con strumenti, con cerca DAC a vedere se lo trovi. Quello è l'apparato, il DAC, che è valvolare e trasistorizzato. Quello ce l'avevo perso da solo qua in Italia forse. Sì, adesso lo vedo un po'. E c'è scritto comunque, ci sono molte recensioni, Cobra Petiolo per l'X, 50° anniversario, anniversario, ultima edizione, ultima figata. No, comunque ho visto, guardo anche molte recensioni e c'è gente dice che è contentissima, si contentissima di questi apparati, e è una cosa che mi ha fatto incazzare che in Italia non ho mai fatto modelli belli anche da vedere, ci sono sempre i soliti baracchini classici, da lì non escono. Anche quello hanno ragione, che adesso provo a fare questo DAC, scrivo direttamente CB DAC. Ascolta, scrivi DAC. Quello sì che è un apparato, sembra un rosso lineare, ragazzi, bellissimo, sono questi manopoloni belli. E è un apparato 40 canali, però se tu lo senti con me, se ti dà questa voce calda, proprio bella grossa, è un apparato particolare. Il DAC messo col Turner più 3 Stidric, quello lì è il massimo. Vedi l'agenzia mi sta caricando la situazione. Comunque, se tu vuoi un apparato come il Carax, io li ho trovati, io lo stesso, devo cercare il sito giusto, che stavo sempre spulciando, e sono riuscito a trovarlo, e venivano sui 500, 600 euro, una roba del genere, c'erano gli obiettivi proprio, ed erano quasi simili al Galaxy, tutti neri, con il manopolone per la ricerca ai canali. Riesci a vedere questo, mi sta caricando il video adesso. No, comunque io sono contento anche del Galaxy, l'unica cosa, va, questo sta funzionando bene, ti ho dato una passata di spray, sta andando bene, non è un problema, l'unica cosa devo fargli incontrare, quindi è riuscita arrivata, tutto lì, poi del resto è tutto a posto, la verità. Una revisionata, devo portare qualcuno bravo che mi dia una revisionata, e poi io me lo tengo finché campa, ecco. Appaga. Beh, il Galaxy non è una cosa, se non c'ha delle grosse cose che bisogna revisare, ma sapete perché? C'è un trimmer per regolare i watt, tu li metti al minimo fai che ti dia al massimo quanto ti dà a te. Guarda, sinceramente adesso per dire, no? Faccio un esempio stupido adesso. È bello, quell'apparato veramente c'ha qua tutto illuminato di bianco con i quattro indicatori, e veramente sembra un lineare gigantesco, un apparato un po' strano, Allora ti faccio questa prova, tu metto che stavo saturando per dire, no? Ecco, così sono a nel Galaxy, sta puntando sui 15 di indicatori FR Power, aspetta, ecco. Adesso se io giro così, saturando sta. Vedi, c'è una maletta di vato adesso. Ma allora i vato te li ha aumentati. Allora, praticamente il Galaxy deve avere 10 vato in AM e 22 banda laterale. Boh, basta. Ecco, ma se sono una maletta, aspetta un attimo, Allora facciamo così. Ecco, guarda adesso se sto saturando e sono una maletta adesso. Adesso sicuramente tu stai attaccando il lineare con 10 watt e magari quel lineare lì particolarmente non ci va bene. Se tu usi un 747 della CTE, se tu lo metti 10 watt va bene, perché li puoi dare sia 5 che 10 in entrata. Mi capisci cosa ti voglio dire? Quello sì, allora aspetta, vediamo un po'. Ok. Ecco, guarda adesso, qui sono a maletto, non sto saturando. Il computer. Poi se scendo così il segnale passa, sì, giustamente dovrei essere basso, così a metà. Se cambia sì la modulazione, è l'uscita. Appagata, no, già va bene, così va bene. Secondo passaggio andava benissimo. Ma quella parte c'ha delle cose regolamentari da seguire, se tu li metti più watt magari ti vai saturazione, capito? Se lo metti troppo sì. No, me lo faccio così, dai. L'unica cosa è che ogni pensiero lo faccio scaldare, questo me ne sono accorto anch'io, Se diciamo l'accendo è fatto subito in modulazione, il frequentimetro incomincia a muoversi per i fatti suoi. Poi quando non scalda, quando è bello caldo non lo fa più, diciamo l'ultimo numero fa 4, 5, 6, 4, 5, 6. Poi quando scalda non lo fa più, rimane fermo. Questo apparecchio soffre di deriva termica, è quello lì che lo fa, è oscillare, cambiamento di temperatura. Solitamente lo fa quando scalda, a te lo fa al contrario, vabbè, comunque lo fa anche a me, diciamo anche il coso, il magno me lo fa. Ah, è una cosa normale, allora già è perfetto, no? Non li faccio mettere le mani addosso, lo lascio così. No, anche io sono contento dell'apparato, la verità. Perché è bello, grande, non devi stare lì con le dittine, carta girate con i pomellini, perché sono talmente stretti e vicini in confronto agli altri apparati, qui c'è tutto lo spazio libero per fare quello che vuoi, capito? No, già è bellino. Io mi ho portato tutto a nuovo, ho smontato il coperchio, aveva qualche piccolo bassegnetto senza essere scalfito, era tutto superficiale, cosa. L'ho prima ripreso bene, è buio, tutto riprovinciato, sembra nuovo togliendo dalla fabbrica. Anche questo è tranquillo, c'è cioè il cloro di FM, infatti me l'avevano detto anche il nominativo di chi era il primo padrone di questo apparato, che non sta più modulando. Ma l'ho detto così veloce, pure non me lo ricordo più. Ah, qualcuno è prodotto? Da Paolo. Poi per di Giappone non so di chi era questo, ma di la verità è tenuto bene, non è a graffi, è perfetto, non è scolorito, sembra un uomo di zecca la verità, né graffi, né colpi, nulla, proprio perfetto, perfetto. E anche il mio era che perfetto, è perfetto, però io quando l'ho comprato per dargli un tocco di classe in più, perché io nella mia stazione non metto nulla di usato solitamente. Sono un po' pignolo in queste cose, gli ho dato una riverniciatina per dare una rinfrescata per caso, però anche il mio era, aveva dei piccoli segnetti come appoggiavano magari qualche altro apparato sopra, ma segnetti superficiali, ripeto, non era consumato più che altro in un punto, ma appena appena. E io è stato pignolo, l'ho rifatto tutto così, almeno non si vede tutto lì. E poi niente, l'ho sfruttato lo sperper contato in tutti i posti, l'ho sfruttato l'aria per togliere la polvere, ce l'era pochissima, ripeto, però sempre meglio farlo, no? E poi basta, tutto lì, siamo andati bene. Sì, quello sì, poi ho visto un video su internet di questo tipo che c'era un Galaxy messo male, gli ha messo in mano, si è cambiato tutta l'alimentazione internamente, gli ha messo la spina di quella grossa tedesca, tutto quello revisionato, e poi gli ha messo i LED blu nelle parti che si illuminano, anche nel frequenzimetro, nel canale, vedere che dove c'era il... dove segna ad esempio il canale numero 21, nella parte dove c'è l'indicatore del segnale dell'uscita del VAT, tutto blu con i LED, e rivedere che bello come l'ha fatto diventare. Ci lo chiedisti, gli smitter, gli strumenti ce li hanno illuminati di celeste. Ah, tutti i celeste ce li hai? No, questi sono bianchi. Bianchi degli indicatori e poi gialli, eliminati dal display, no, non gialli, scusami, solo il verdolino rimane chiaro. Sì, ma li ho cambiati io, cioè perché si è fulminata la lampadina, poi li ho messi tutti due così, ci resti, capito? Se volete che le lampadine volendo, da Fusaro le troverai, sì. Anche le due blu li puoi mettere le due blu con una resistenza. Perché se no ti partono subito, li metti una resistenza e tutto lì. Se poi, siccome quando tu la togli dallo smith, la lampadina, c'è una gomma, no? Non so se tu l'hai già guardato, la lampadina c'è una gomma che li fa da spessore. Se vedi che quella gomma lì praticamente è usurata e cosa, gliela togli, li metti la lampadina, il LED, e poi sopra il LED li metti a pelle di silicone trasparente. Tutto lì. E poi quando lo devi cambiare, così puoi cambiarla, toglierlo tranquillamente, si ricorda, metti gli altri piccola perché poi hai scine un casino. Quello sì, o silicone trasparente oppure un po' di colla a caldo che tiene, per la tocchi poi volendo si stacca. Ah, dunque due LED direttamente e poi la resistenza, intanto la danno loro il valore giusto della resistenza alla fine, no? Si può fare anche così. Però tu le LED te le metti direttamente a posto delle due lampadine, allora. Ah, è perfetto, faccio un LED da 12 volt alla fine, così, e due resistenze. Due resistenze. Sì, chiedi da 12. Io pure i LED li ho recuperati, ti dico la verità. Le cose sì, io avevo comprato per il computer quelle ventole che si mettono sotto per raffreddare le cinesi. Ed era piena di questi LED blu. Attorno si illuminava tutta di blu, poi un bel giorno si è craccata, si è rotta, allora io ho recuperato sia le ventoline che mi potevano servire, sia i LED, però non me lo ricordavo più che ce li avevo, e stavo chiedendo se potevo, se sapevano qualcuno che c'era LED, allarme, eccetera, eccetera. La cosa, la GMC ci sono, ma costano un euro l'uno, sono proprio un meccanico. e li ho recuperati da lì, ti devo dire la verità, li ho recuperati da quelli che avevo e ho messo quelli lì, ma illuminano benissimo. Sei entrato. No, io sono rientrato dal QRX. Ah, beh, grotto, sveglio stessi. Sereno, non ve ne eravate neanche accorti. Se non ti sei fatto sentire, pappagatto, stavi ascoltando, facendo la decina di buco, stavi, no? Negativo, avevo proprio spento, stavo facendo una bassa, ma ve l'ho detto. Chi c'è anche Antonello? Fatto il numero al telefono, ci sarei stato 5 minuti, non 3 ore. Allora sì, c'è che lo svelto. Più. Pappagatto. Ma se vedi subito quello di poco, si è visto. Avanti Giampaolo, grande c'è di poco volete stava facendo, buonasera. Giampaolo, ti aspetto più vasto del solito, come mai? Allora se fosse la legge di buco, cosa stai aspettando che ti conciliamo il tonno? Ciao Campa, buonasera Che c'è che grudino? Che c'è grudino? O te grotto? Allora ci avevi Giampa? Pure in fatto se ti avevamo compreso. Però dove prenderai? Vai perché... Toglierai passato a me? Sì, io va. Dottore Momo l'hai già andato in 144. Cappa di Roggero. E allora? Siamo pronti per questa cosa? Cosa? Per studiare questa faccia? Cappa. Sto finendo di mettere a posto un attimino lo statuto e... breve, assolutamente entro il 15 verrà registrato, quindi c'è una settimana di tempo per finire. E sarà intestata l'associazione a Nikola Tesla. Sai chi è Nikola Tesla già? No. Tesla è la persona grazie al quale io e te in questo momento ci possiamo sentire, anche se un ladro di nome Marconi gli aveva rubato dal suo laboratorio l'idea. Ci è passato lui per lo scopritore della palla. Ma il problema è questo, che quello lì stava cercando di fare il teletrasporto e aveva scoperto le onde radio. Soltanto che non gli aveva dato interesse perché voleva andare oltre, capito? E mi è passato Marconi, dice, esce a vedere un attimino, che a me forse interessa. Futillo. Lui lì è morto, poveraccio, capito? E Marconi si è preso onori e gloria. Marconi era grande come te. Un veri grande. Cappa cappa. Vabbè. Allora. Vediamo chi è d'accordo, chi non è d'accordo. E vogliamo vedere come parte la situazione qui. Ma infatti la situazione partirà come... Cioè chi si vuole tenere anche a distanza un attimino e vedere poi come va, e me ne accetto anche in seguito. Nel senso che la porta è aperta per tutti, assolutamente. L'importante però è creare una realtà, poi c'è anche chi non può essere d'accordo. Poi la storia non è o con noi o contro di noi. C'è esclusivamente la possibilità di associarsi che avrà tutta una serie di diritti e di doveri sicuramente. Però soprattutto i diritti. Ad esempio se vieni tu ci avremo anche lo sconto alla Sisa e lo sappiamo. Non dipende da me. Figurati se ti fidi se vado da Ronaldinho, figurati se non la fanno quello, pur di farsi pubblicità. Tu c'è profile? Abbastanza, per vari motivi. Ti ripeto, confidenza, aspetta, confidenza, bisogna vedere cosa intendi per confidenza, nel senso che ci posso parlare tranquillamente. Ah. Nel senso che è un mio inquilino, capito? Ci vado io. Dei più piccolini che ha, visto che ne ha 28, quanti che ne ha? Il negozio. Ho 23, 28, 23, boh. Io ho perso il conto. Grazie. perso il conto, ma meglio per lui. Ci sono delle cose che non mi piace che fa, o almeno così sembra, però vabbè. Capito, perché a me è capitato di collaborare, di fare del volontariato in quella che si chiama Casa della Fraterna Solidarietà, quella dove danno la spesa. Ho capito. La frutta marcia arriva lì. Stavate chiamando? Scusate un attimo, ma perché hai chiesto se Antonio Bombo non c'era per parlare di questa cosa? Ma guarda che sono all'ascolto, Con Giuda mi hai fregato, tanto. Mi stavate chiamando? Ma questo non vi svegliate tutti quanti? No, Antonio Bombo, no, ti volevo parlare di questa cosa, ti fa piacere se ci sei, assolutamente. Però... Mi siete sono là. Uno sopra l'altro, cosa hai detto? Ma è buonanotte, dai. Non c'è problema, volete voi attestate. Tanto, non si è capito nulla, vi siete sovrammodulati, ripeti quello che hai detto. Adesso, ho sentito quella cosa, io bombo la nata per me, poi è entrato il discorso, è entrato. Come al senso, ma meglio che non ci sia, ma io già ci sono però. Parlate comunque, non c'è problema. No, Antonio, non è che questo è su di dai. Non l'ha detto in quel senso, perlomeno io credo, l'ha detto se per passare il microfono, secondo me, poi non so come l'abbia interpretata tu. No, è nel processo lì, proprio cattiveria, allo stato pure. Non è che, a me già va bene, non è che cose, capito? Dai, buonanotte, dai, ce la sentiamo domani. Adesso possiamo parlare male di lui, mica se n'è andato. Buonanotte, e sogni d'oro. Non parlare male, che ti conviene. Che ti voglio bene, già lo sai, e comunque volevo sapere perché ti volevo rilanciare il microfono, ma soprattutto perché se iniziavo il discorso avrei comunque voluto sapere quello che era il tuo parere, già lo sai. Ma che io ci sono anche salito l'altro giorno, se voi non vi siete fatti vedere, capo. Ok dai, continuate, non ho voglia di parlare, sinceramente. Ciao, buonanotte a tutti. E pure a te, stanco di mascella, sì, e comunque ti annovero nelle persone a cui ho chiesto scusa, perché non volevo essere un bidone, purtroppo ho avuto un po' di problemi e non sono potuto salire, mi è dispiaciuto, quindi adesso al più presto, visto che comunque ci sei, abbiamo deciso di trovarci a casa di Antonello, tale Antonello Pomponio, che sarà lo stesso in ascolto, e lì faremo una specie di riunione, vediamo un attimino. Prenditela Gianni. Io fatemi sapere quando l'ha fatto. Assolutamente sì. Gliela facciamo un casino alla casa, gliela radiamo al suolo a Pomponio. Io vorrei precisare una cosa. Vada. Allora, niente, andare ed andare per forza, poi che siamo in 3, in 4, in 5, pazienza. Voglio che vada io, però voglio precisare questo, e che mi interessa che quando la situazione nasce, la cosa che mi preme di più è che tutte le persone che ci saranno in questa associazione devono sapere, tutti devono sapere che quando entra 10 si sa che entra 10, tutti indistintamente. Se esce 5 o 3 per dire, e si è stato acquistato un apparato, una qualsiasi cartatina, anche una vite, da questi 10 è stato speso questo A, quest'altro, e di rimanenza c'è tale. A me interessa che tutti sappiano quello che entra e quello che esce, anche al minimo centesimo, perché secondo me la cosa più giusta è far vedere che c'è l'onestà al 100%. Secondo me quella cosa non è più prioritaria, perché molta gente si sa che incominciano le brutte storie col fatto dei due spiccioli che entrano giustamente e poi si rompono l'associazione. Dunque devo evitare un sacco di casini e e parole così buttate al vento, è la cosa più giusta dimostrare qualsiasi cosa che entra e qualsiasi cosa che esce. E già da lì è un buon inizio. Facciamo un registro di cassa con le tratte di uscita, non ci vuole molto. Come non ho capito? Non ho capito, proprio lungo. Ho detto, basta fare un registro di cassa con le entrate e le uscite. Sì, perfettamente d'accordo, che sia registro, che sia parole, che scritto a carta, che sia messo alle porte o in banca a nome di dell'associazione, che deve essere, diciamo, la situazione limpida come l'acqua, anche di più, per evitare casini, perché meno male anch'io ci sono stato in un'associazione, ho visto già come è partita e come è finita, ed è finita male, uno perché ci sono delle persone che sono entrate lì a rompere le palle e a distruggere la situazione, e in più parole magagne per il fatto di quello che entrava, non si sapeva quello che usciva e chi ce li prendeva, questi pochi soldi che entravano, capire dove andavano spesi, e già da lì la situazione è morta prima di nascere. Dunque, per esperienza, la cosa più giusta è che sia tutto all'ordine del giorno, che tutti sappiano cosa c'è, cosa non c'è, cosa si è preso, cosa non si è preso e quanto è rimasto. Questa secondo me è la cosa prioritaria che deve funzionare, poi il resto vedrà che funzionerà ancora meglio. Perché bisogna fare un direttivo con il visore dei conti, responsabile di quello, responsabile dell'altro, un direttivo, basta un direttivo. Sì, il direttivo sì, sono pienamente d'accordo, anche dove io c'era un direttivo, un presidente, un consigliere, un sindaco, però questi non aggiornavano mai a nessuno di quello che entrava e di quello che usciva, a nessuno, se lo tenevano, diciamo, queste storie si tenevano per loro, e già lì la situazione è andata male, invece non mi sembra anche giusto che gli altri che partecipano, volontari, non volontari, chiamali come vuoi, però devono sapere tutto di tutti, è la cosa più, secondo me, più onesta che ci possa essere. Per evitare, ripeto, le cazzate degli adulti, perché io intendo come, perché la maggior parte dei bisticci non lo fanno neanche i bambini, che sono bambini, ma scusa che una persona è adulta, dovrebbe avere un pochettino più di testa e sale nel cervello, molte cose si possono evitare, invece non nascono già da lì questi disguidi. Dunque già in partenza deve essere la cosa più onesta sulla faccia della terra e vedrai che la cosa funziona. Così è un problema però. Per quale motivo è un problema? Ma faccio io a rubare, se no? Beh, no. E alla fine, guarda, se c'è un esempio stupido, ci sono 100 euro, certo, che se uno ruba 100 euro non si fa né più ricco né più povero, eh. Adesso ti dico una cosa, è quella che è stata la mia esperienza. La mia esperienza è questa, io ho fatto parte di tutta una serie di associazioni, in una di queste, e non faccio il nome per evitare problemi, ma problemi che poi sono relativi, tu devi vedere come chi aveva tirato sulla associazione, proprio perché l'aveva tirata su, si sentiva nel libero di poter attingere dalle casse di questa associazione come se, avendo tirato sull'associazione su lui, perché aveva avuto l'idea, nemmeno come la sto avendo io, questo qua era un dittatore, non ha capito che l'associazione è una micro società, è una micro repubblica, dove alla fine c'è un consiglio e quindi, cioè, è una democrazia. E in democrazia devi, come hai detto tu, fare le cose limpide. Un esempio per tutti, tu immaginati che questo qua ogni volta andava da Multiniddu, si prendeva 5 kg di carne di cavallo, visto io, e dopodiché lo giustificava come cene associative. Questo era uno dei modi che utilizzava per intascarsi i soldi. E aveva creato talmente un clima di terrore che i soci non si ribellavano, stavano zitti. Era la cosa peggiore. Era un tiranno questo qua. Ma l'associazione dovrebbe nascere, secondo il mio punto di vista, lo dice la stessa la parola, per socializzare, per farti, per scherzare tra di noi, per farti un discorso, per mangiare la fame insieme, ecco, questa è l'associazione, stare bene, siccome io in associazione civile ci stavo stato ma molti anni fa, e come l'ho conosciuta io, l'associazione che c'era andava alla grande, queste le arrivavano tutte le spese, e poi c'era il signor Giulio Columbano, che il signor Giulio, che adesso non c'è più, che distribuiva le varie questelle, c'era la caccia al tesoro, c'erano le gite, c'era la partita di pallone, c'erano tantissime cose organizzate da questa associazione. Io lì sono stato molto bene, e non ero piccolo, non ero tanto grande allora, c'era molta gente anziana, c'era molta gente giovane, ragazze, ragazzi, c'erano nati amori, insomma un po' di tutto. Infatti la cosa bella di un'associazione è quella, è anche quella di riunire nella propria eterogeneità, nel senso che non dobbiamo essere tutti uguali, non dobbiamo concepire tutti quanti la radio e l'utilizzo della radio nello stesso modo, però è bene che ci siano delle regole, perché se due persone sono agli antipodi, nel senso che se concepiscono la cosa in maniera talmente diversa, è inutile che si associino. Quindi dobbiamo condividere quantomeno determinate cose e rispettare delle regole, è quello che dico io. Soprattutto deve avere un fine, uno scopo, che deve essere un attimino più aulico, cioè superiore a quello che gli stiamo dando adesso, che è il mero utilizzo per comunicare. Quindi cerchiamo di evolverci, senza aver paura, perché molto spesso le persone sono spaventate dal fatto che si possa andare oltre, che si possa avere un utilizzo un po' più culturale, se così lo vogliamo chiamare, della cosa. E questo è sbagliato, perché una persona si deve sempre cercare di migliorarsi di giorno in giorno, almeno questo è il mio modo di vedere le cose. Posso intervenire io per dire un'ultima cosa e poi vorrei chiudere? Sì, sì. Io sono fatto una persona fatta così, quando va tutto bene sono contento e cosa, quando va tutto male, cioè quando va qualche cosa male, prima lo ricade buono, poi ho un livello di sopportazione molto basso. Ma poi ecco perché io non voglio, adesso dico la verità, io non voglio mettermi in queste cose qua, perché se io vedo qualcosa di strano, mi conosco troppo bene, hai capito? Ho un carattere un po' particolare, che io te lo dico un po' di volte, se poi non lo fai, io parto con le mani, hai capito? Ecco qua, hai capito? Perché non voglio molto mettermi in queste cose qua. Ecco, solo detto perché siamo di notte, non c'è poca gente ascoltando, però io sono fatto così, te lo dico un po' di notte con le buone, poi fatto così che si chiata, capito? Ecco, io ho capito, ma tu pensi che questo lato del tuo carattere sia positivo o negativo? Sono fatto così, tu sei Antonio e sei fatto in una maniera, io sono Antonio e sei fatto in un'altra, Gianni è un'altra persona, è fatto in un'altra persona, Antonio è un'altra persona, sei fatto con un altro carattere. Io ho quel carattere lì, se lo dico quattro volte, ma la prima volta è buona, e poi basta. Cioè, sono fatto così. E quando fatto non mi fermo più. Quindi io molte volte ne sto fuori da queste cose, per questi motivi, hai capito? Adesso molto ho detto. Ma scusa, se la posso fare una domanda? Proprio carattere. Come stai dicendo tu, che possono essere anche un po' estremi, e la vita conviviale, stare con gli altri, molto spesso serve per smussarli, nel senso che ti rendi conto che molto spesso non ne vale la pena, e la calma la trovi anche stando con gli altri, relazionandoti, perché non sempre per forza bisogna, dopo quattro volte, menare le mani, uno può anche girare i piedi e fare la cosa più intelligente, cioè andarsene, o comunque non parlare più con una persona. Non per questo andare via dall'associazione o non rimanere all'interno dell'associazione. È un po' come stare al baracchino. Realmente, se una persona a te non piace, non c'è bisogno di arrivare alle mani. Non ci moduli e basta. Se tu vedi bene, io con certe persone li ignoro completamente. Non ci modulo, ma no, se è possibile non li vorrei manco sentire, se è possibile. ti sento così e cosa, ma no, per me quando una persona si comporta in un certo modo, per me è giusto. Tutto l'evito, così l'evito, perché di notte forse per me lui lascia perdere. Tanto. Ma te la posso fare una domanda? Una domanda? Scusa un attimo, ma arrivato a un certo punto, per il modo di vedere, anche a me si mi rompono le palle, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, anche 20 volte, e poi alla 20ª volta anch'io sono bravo a difendermi, anch'io mi giro le palle e gli parto, o gli parto subito, ma non per questo, scusami se te lo dico, questo è il mio modo di vedere, non perché c'è questo carattere così irascibile, cazzo ti devi isolare perché c'è questo carattere qua, guarda se che con lui stai bene. Io non sono un tipo che non vado a rompere le palle, se c'è qualcosa che non va, un esempio in un discorso, io e tu per dire, che non condividiamo, io ho la mia reazione, ma per quello parto con le mani, no? Allora cerco di dire la mia e dico il mio pensiero, tu dici il tuo pensiero e uno vede un pochettino di equivalere nella situazione, ma non per quello, cazzo, scusami se te lo dico, ti devi isolare perché poi devi mettere le mani addosso agli altri, però mi sembra una cosa giusta, Poi questo lo devi vedere tu. Nella vita bisogna avere un po' di autocontrollo, ragionare di più. No, no, per arrivare all'autocontrollo è tutto. Signora, non ti posso vedere. Io con la gente che ci sto bene, ci sono sempre stato bene. Ci sono sempre stato bene, capito? Non è. Però con la gente che mi fa girare le palle, non mi va più. Ti giro le spalle e non voglio più che... Cioè Gianni lo sa come siamo fatti, perché non sono solo io fatto così, è anche un'altra persona, e lui lo sa benissimo, che quando mi si girano dico comodi, un pochettino di volte, te la perdono, poi non ti voglio più sentire. Però se mi rompi le palle, figlio, è fatto in quarta. L'importante è che mi lascia stare in faccia. Io sono il mio carattere, così è basta. Non è che lo cambi tu. Tu? Io? Guarda, dimmi tutto. Tu a me mi vuoi bene? Ehi, dimmi tutto. Te la bacio. Ehi, vieni che ti faccio passare un'altra cosa. Io vado a dove vado a stare presto. Vi saluto, vi auguro una buona notte, dai, presto questa sera ci teniamo informati e nel caso ci sentiamo domani, dai, buonanotte a tutti, a domani. Ciao Tony, buonanotte. Assolutamente Antonio, ciao, buon 144, buon QRP, grazie per il QSO. Chiaramente si scherza per drammatizzare, però sono pienamente d'accordo con il tuo modo di vedere le cose. E comunque, ma prendi scatto? No. Gianni, hai fatto che riprendi quindi tu a lavorare? E allora di oh, 144 anche Antonio, Antonello, ok. Vabbè, dai, io adesso chiudo. Hai capito? Tutto qua, finito lì di solito. E non mi va neanche di prenderlo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Buonanotte, buonanotte, ci sentiamo alle prossime. Gianni, io che facciamo la chiusura, dai. Ieri, ero lì a Platamona dove c'è il villaggio e ho visto che c'era una persona che stava scaricando la radio e non me ne fanno tenere sulla motrice. No, negativo. Ma sì, sono quelle, sì, quelle grandi, sì. Le vostre? Però che c'è l'antennino piccolino. Sì, già ce l'avevano, ma quello non l'aveva fatto più montare. Prima doveva essere una cosa interna, cioè una linea dedicata, nel senso che avevano una frequenza. No, avevano la 27, c'erano la 27, parlavano con i camionisti, con tutti. Una frequenza che non è mai riuscita a decollare era quella, i 45, i 43, che cos'erano, i 43 MHz. E 43, la frequenza sostitutiva della 27 doveva essere. Poi non non se l'ha scagazzata nessuno, e sono nati da allora però i PMR e gli LPD, che sono con la frequenza dovrebbe essere, no? No, 433 è quella lì. 433 e 466 che sono i PMR. E io con un portatile sono arrivato a Platavona, fondo scala. Ma è vero, ma poi ce ne sono alcuni che possono essere, gli puoi fare una modifica e riescono a fare 5, cioè 10 km realmente, però costano un po' di più. Però il PMR, che adesso non so quale sia il wattaggio massimo con cui possono uscire, però sono delle belle radio, davvero belle. Per un periodo l'abbiamo usate quando facevamo i servizi tipo stadio, roba così all'interno, e abbiamo usato quelle radio lì. Ottimo, ma poi hanno un prezzo davvero irrisorio, nel senso che costano poco. Io ne avevo preso due della Brondi e funzionavano abbastanza bene. Ma il servizio stadio, vabbè, che adesso la torre c'è dove, quindi non ne state più facendo. Cosa, non ho capito? Stavo dicendo che la torre si è ormai scesa talmente di categoria che il servizio stadio non ne state più facendo. Io ho detto stadio per non dire palazzetto dello sport, quando ci sono tutte quelle tipo giocaggi, tutte quelle cose lì. Di Roger, ma quelle due persone che conosco io sono rimaste all'interno della deciso. Sto, non mi ricordo. Da cosa, come si chiama? Il piccoletto che faceva parte anche della polizia e cosa russa. Sia. Egli ha dell'ecozoofila, Marietto, Marieddu. No, Mario non c'è più a Cisui da un bel giorno. Io adesso non mi ricordo come si chiamava un altro che conoscevo. Ma se non sbaglio c'era anche la moglie di qualche vigile urbano, se non sbaglio, che adesso sta lavorando all'ospedale. Sta lavorando all'ospedale. Come si chiama? Sembra Luciana, Giuliana, boh, non mi ricordo. Risulta. Ne avevamo avuto una che adesso è vigile, sta sì, quello sì. Non negativo, ora che questa qua sta facendo, non è neanche infermiera. Prima ha iniziato facendo la portantina, poi l'OS, adesso credo che sia in qualche ufficio. Ma noi ne abbiamo avuto sia infermieri professionali, ne abbiamo tuttora, che dottori, che si sono laureati e stanno continuando a fare i volontari da noi. Però non mi risulta che ci sia questa ostra. C'è stata Alessandra che era infermiera professionale, adesso si sta laureando, si sta prendendo un'altra laurea con medicina. Cioè, bravissima come ragazza, molto intelligente. Si è preso prima la laurea, è entrata all'ospedale a lavorare come infermiera professionale, non le basta. Mi piace talmente tanto che si sta laureando in medicina, deve dare la tesi fra poco. Ti ripeto, nel momento in cui fai una gavetta così, come volontariato, figurati quando vuoi a fare il tirocinio, ti fa ridere, capito? Si chiama, no, adesso che ci ho pensato bene, è Giuliana. No, che mi risulti no. Qualcuno sotto? Io non ci sto più bascicando, sono da un po' che non ci vado, dai. L'ultimo servizio ho fatto la sosta di post-ottose, poi dopo la sosta di post-ottose non li ho più visti. Da poco però, dai. Sosta di post-ottose San Gavino è stato quant'è, 2 settimane fa? Sono già da un po' che non ci va, prima andavo tutti i giorni. Adesso non... Vabbè, ho avuto anche le mie cose, mi hanno chiamato per vedere se faccio lo servizio, ho detto che devo andare fuori, quindi non l'ho fatto. Sì, ma no, sono molto stanco questo periodo. Si sente, vabbè, ma poi sono quelle cose cicliche dove alla fine magari uno dà un attimino di stop e poi riprende, capito? Io chiusura. Grazie. Auguro a tutti quanti una buona notte, un buon trabacco per domani, compreso te, Claude, e tutti quelli che sono all'ascolto. Da più un QRT esecutivo, ciao a tutti e buonanotte. Ciao Roger, 7351, ben sentito, ben ascoltato, buon QRT. che buon 144 adesso che lo farai. Ciao ciao. Ciao ciao. Buonanotte a tutti gli ascoltoni. Quando ci